ecco Riccardo, sono là. Ehi, alle gabelle. Ero tutta la sera in giro, tutto il giorno in giro. Adesso sono con Riccardo. Io dai, mi riposo un pochino. Dai. Ci sentiamo dopo, ok? Sì. Ciao. Ho detto il nome, mi sono sbagliato, ero sovrappensiero, con tutti i ricordi. visione cara e dirci. Avanti. Chi è? Buonasera. E buonasera, Antonio, sono. Tu ti sei uscita a papà? E io a letto sono. Ah, già si vede. Non è che si vede, si sente. Ehi, vabbè, uguaglio. Vabbè, tutto a posto. Via, mi sta provando con le 4000. Con lineare. Sembra che stia andando. Sembra che stia andando. Devo guardare le lineette qua, vedere se è bello forte. 1, 2, 3, guarda, va. 54 sta dando. Il lineare. Comunque la moto va andata molto di più, con questa va molto di meno. Questa è bella. Eccomi qua, Antonio. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non lo so quanto indica nelle lineette, ma deve essere bello forte. Sei molto su, sei. Ah, meglio così. Era parecchio quello. Non usavo questo aggeggio. Figurati. Allora. 54. Penso che sia 9,25, penso. Adesso lo staccato. Adesso pulisco. Chi mi arriva con quelle lineette lì è da 9,25 a 9,30. Così sono 9,30. Capito, Antone? No, ho capito se così sono. Allora, così sono attaccato. 1, 2, 3. E così sono attaccato. 1, 2, 3. Sei uscito di radio. Non sono uscito di radio. Allora, questo è strano. Prova adesso, sì, prova adesso, ero io. Ah, mi sembrava strano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va benissimo, va, ma la manto qua c'hai? No, sto usando la cosa, la... La Mercury. La mezz'onda. Già va bene, già, se me lo forte. Ehi, già va bene, adesso sono attaccato, non sa che magari distruggo i televisori, cosa ne so. Già andrà bene. Cappa. Uia, mamma mia, io sono col portatile, sono coricato a letto. Come mai? Fretta avevi. Ero stanco, mi sono coricato. Ah, ho capito. Ti sei scidato a va. Adesso ho dormito un'ora, un'ora e mezzo. Già vabbè, meglio di niente, già. Scappo. Quindi sono, già si sente, già. Non sono uno col baracchino normale. Già si sente che sei col portatile. Già va bene, a voglia. Ma già funziona lo stesso. Certo che funziona lo stesso. E chi è avanti? Cara che fruscendi. Tu abbasso. Questo HLM. Affancuffia, cazzo. Sì, sta ricatto. Questo già è buono. Ci entro un attimino in bagno, Antone, che mi disoccupi, scende. Faccia con comodo, tanto io sto facendo roba qua. Yeah. Buonasera. Cazzo, mi quale sono altro riproduttore, se mi... Già, sei ancora vivo, già. Ehi, Pupunio! Allora, buonasera, ben ascoltato. Ti stavo cercando cosa, Marino, a te. Ti stavo cercando Marino, perché? E mi ha telefonato stamattina, alle 8. Mi ha chiesto se c'avevo il numero di telefono tuo. E io ho detto no, non ce l'ho. Ti stavo cercando non so per che cosa. Gente, faccio uno squillo adesso a Marino, così lo faccio entrare il 27 e così ti chiama. Vediamo se c'è qualcosa da chiedere, tipo... dai, dai, chiamalo, chiamalo. Dai, magari ha un portatile che mi serve per un amico. Ah, vabbè, adesso sono due minuti, prendo l'altro telefono, è così, meglio il numero telefonico, lo chiamiamo, e lo chiamo. Antone, fa casino qua. Bombolo. Un attimo, sono qua al telefono, un attimo, lo riprendo subito. Va bene Eugenio. Anto. Avanti. Eugenio appena rientra, lo stai dargli il numero di telefono di Marino. No. Cioè il numero di telefono di Marino, dovresti dirgli a Marino di telefonare a te, così glielo dai per telefono, il numero di telefono di Marino. Vabbè, non ho capito bene la mossa, devo chiamare io Marino per dare il numero di Eugenio, io il numero di Eugenio non ce l'ho. Non c'è nessuno. Quindi non c'era neanche tu, Marino è fottuto, non può entrare la baracca, non c'è gente, e quindi boh. E oggi fa una cosa allora, fammi squillare il telefono mio, ti dico, fai solo uno squillo, poi io lo do a Marino, al limite, aspetta un attimo, ti do il mio, segnati 671 162 3461. Aspetta che devo prendere la stella, io andai di Brescia, io solamente il cellulare della società, capito, non ce l'ho il mio personale, ho tutti i numeri di telefono del lavoro. Aspetta un attimo. Via, va bene, poi quando sei a casa al limite cosa devo dire, lo chiamerai. Dai, dimmi. 3 7 1 1 6 2 3 4 6 1. Questo è il tuo? Eia, questo è il mio. Tu fammi solo uno squillo, poi io già chiamo Marino e glielo do a Marino. Ma lo faccio. Eia. Tanto lo stai lavorando oggi? No, sono giorni libero. Ho fatto 6-7 giorni a Capodanno, cioè dopo Capodanno e cosa, anche la notte del 31 ho lavorato, adesso sono a riposo, capito oggi? Ma perché la rivendita cosa fa? Anche le luci? La rivendita? No, non lavoro io, non lavoro la rivendita, lavoro, faccio all'incirca lo stesso lavoro che fa Gavino, lo sai, sì. Però io ero rimasto che non vendi più bomboli, non sapevo che avessi cambiato lavoro. Sì, sì, no, ho cambiato lavoro, sì, prima sì, forse domenica va a farmi una mezza giornata anche, perché non c'è altro. Ah, ho capito, fai anche, dai, metti musica nei locali, ho capito. Dopo, a te! No, hai compreso, faccio allestimenti, audio, luci e tutto, ho capito, allora allestisco, ho allestito sia ad Alghero, sia a Sassari, Ligabue, ecco, poi ho fatto altri eventi anche, con tutta l'estate ho fatto altri eventi, Reng e Neck. Ah, dai, lavori nel cerco, il service, dai, ho capito. Sì, c'ho quel lavoro lì. Ci ha ricevuto il numero 3, aspetta che chiama Marino, glielo do. Ehi, dai. niente, dai. No, ti ripeto, sono rimasto che tu giravi con l'autocarro per consegnare le bombe. Prima sì, adesso non più. Ma adesso faccio quel lavoro lì, faccio. Tanto, come era mollato quel lavoro? Capito. E ho detto, come era mollato quel lavoro? No, ho detto che mi ha mollato a piedi. Ah, poco lavoro, là, faccio un pris. No, mi so che ci hai invitato con una moto, mi so. Sono fatto male, non mi ha fatto più rientrare. Ma appunto, mi scende in moto, con il motocarro? No, con la moto mia. Ho capito, che moto avete? Moto a strada? No, un cinquantino. Ci sei trabinato? No, sono caduto lì perché hanno grattato in terra, hanno lagato così, ed era pericoloso, sono caduto io. Ma sono caduti anche altre gente, sono caduti con la moto. Sono passato e sono caduto, mi sono fatto molto male, sono stato anche operato. Adesso che sei Dio già sto bene, no? Se non ti ha fatto più rientrare, per verme. Cosa vuoi fare? Mamma non me ne frega un cazzo, ti dico la verità. Vabbè, cazzo, hai messo un posto di lavaggio, la giù crisi. Ah, per altri sensi è meglio che sia andata così. Meglio che sia andata così tanto. Dove ha sapere si gente. Mi stavano chiamando, chi era Marino? Tu? No, era sul telefono mio, che ho schiacciato. Gli ho dato comunque dove telefono a Marina, adesso chi ti chiama? Ma capito, dove sta sempre Missigendi, dove sta, meglio che sia andata così. Va bene, poi già lo so tu come la butti. Tamponio, tu contatti non ne hai? No, ce l'avevo contatti per io, l'avevo dato no. 50 euro e meno. Quanto è la lunga, 1,20 m. Ah, questo è toco, questo che io sto usando io adesso si può attaccare anche l'accendisigara e l'antenna. L'accendisigara e l'antenna? C'è? C'è il coso, c'è l'attacco. C'è l'attacco antenna e accendisigara. Che c'è per davvero, Ah, lo puoi attaccare alla macchina. Ho capito. Ci puoi attaccare anche l'antenna. Adesso io sto usando in casa con un alimentatore che c'ha già l'accendisigari disposto, switching, e sto usando con l'antenna. Con l'antenna fuori, dai. E come mai stai usando il portatile? Perché sto galletto. Io devo fare la notte, che palle! Sono uscito poco fa, adesso riattacco alle 11:30. Perché sono a letto, ho capito oggi. Ho capito che sei a letto. Sto dicendo, io ho smesso, ho finito alle 5 di lavorare, e adesso devo attaccare alle 11:30. Faccio la notte. Purtroppo è così. Arrivi anche sulla nave. Mi sono rotto le scatole, ho una cibugana. Si può mangiare con simmi. Giù che giù. Adesso glielo vi dato il numero che è. Aspettate che quella fa il mio telefono insieme al suo, quindi stavano raggiungibile. Capo. Non ci riesce, non aspetta l'altra. C'è stata salire chi ho picchiato? No. La zona Lima Delta, latte dolce. Ah, hai cambiato casa? Mi sono preso questa donna, perché c'ho un figlio, mio padre è morto, quindi. Ah, ho capito. C'è un figlio piccolo? Sì, abita latte dolci, capito? Meglio sai dove di prima. Qua sì, c'è la casa grande. La casa grande e sto meglio sì. Andava quando uno può migliorare, va sempre bene. Cappa. Poi prima non sentivo nessuno, adesso mi sono messo l'antenna su e sento tutti. Vabbè, mi sentivi. Hai sentivi anche bene. Quando va via la boomera, no. Ma chi aveva cosa va? La Ringo che ci aveva sassari vecchio sul tetto. Già va bene, buonasera a tutti. Mi rovi? E allora, che si dice? Oh già. Ciao a tu. Buonasera. Buonasera. Ciao già, buonasera. Buonasera OG. E allora? Itemi contate se. Ciao già, ciao, saluto anche a te. Ma oh, OG. Ah, ciao tragedia, ciao Alessio, non avevo sentito che ci fossero altri, dai, io saluto tutti. Non ho fatto ascolto, scusate. Dimmi Alessio. Guarda che ti ho mandato un messaggio nella segreteria telefonica tua. E che entra la segreteria, capito? E te l'ho mandato tramite il mio telefono. Perché Marino non riesce a chiamare. Quindi dovete ascoltare la segreteria telefonica, c'è il numero di Marino ti ho mandato. Ma che se glielo mandi via WhatsApp fai prima. Ho chiamato anche un mio amico, Alessio. Come fa? Sicuramente era occupato, dire di riprovare a Marino. Se vuoi ti chiamo io, un casino, aspetta, ti chiamo al 3440, aspetta un attimo. Santone, se glielo mandi via WhatsApp fai subito, fai prima. Sì, ma no, ti ho preso, mi chiami tu, se mi richiede una cosa Marino. Ti do il numero di telefono io, tramite l'altro, sto coprendo un casino, sto coprendo, vai sì. Ma che sei vecchio, non ci sei buono, vai. Oia, oia. Voi avete anche questi apparati su Facebook, no? Apparecchio. E allora? Chi era che ha fatto l'apparecchio? Apparecchio. Ho messo un DX che stava facendo in diretta. La verità non l'ho visto. Che con la Spagna mi pare. Perché gli piacciono le spagnolite. No, il brasiliano mi piace. Brasiliano con tre capi. Non chissà cosa a parte. Caccioni. Pesce, ricentino. Che sta mandando il numero che no. Che si è incasinato, bastava mandare il numero subito su WhatsApp e spazia subito. Chi c'era in frequenza tu? Perché non l'ho fatto ascolto? Ma c'era, se ti trovo voi sono entrato. C'era Eugenio, c'era Antonello, c'ero io e si è entrato tu. Quindi quelli che siamo adesso. Oh, pensavo ci fosse altra gente oltre lui. Poco fa ho sentito qualcosa natalino, ma ero dormito. L'hai sentito la dormipiglia? Come mai dormito? Ma stai bene? Che eravamo tutto il giorno in giro, quindi adesso ero stato. Ecco. Io me l'ho fatto dopo pranzo, mi sono coricato a guardare il televisore e mi sono dormito nel divano. Fatto bene. Intanto, ho fatto mille cose stamattina tu. È andato a pagare il condominio, è andato a pagare il bollo della macchina, a fare la spesa, chi non mi è dato, alla fine poi ti stanco. A proposito, lo pagherò anche io. Oia, nonna Giugana, la nonna più stanca del mondo, nonna Giugana. Sono piacere per andare a volare qua. Oia. E che ora entri? Oh, adesso noi dobbiamo essere alle 11, giù adesso alle 11 e mezzo. Vediamo. Ma così tardi arrivo? È una nave da carico. Ho capito. Troppo, quando c'è il lavoro bisogna andare. E chi viene già sempre? E chi si rimane fasciato un guru? Ancora mi c'è miseria, tu la futi in linea. Ora mai fatta, Oggi è da aggiungersi uno di chissi, non mi ha manco salutato. E ammazza, di vai. A chi? Di Ruatinossi? No, aggiungersi il Sassari. Ah, beh. E sono di quelli che devono scaricare carte igienica, no? Non quelle cose lì che sono pesanti. No, ma pure la ragione, sono io il cattivo. Tu sei il capo lì, il capo squadra? Sì, a volte sì. Ma lì bisogna avere forza, perché se no non è lavoro per tutti. No, non è travaglio baete, no. Come continua ad andare un circolo, continua. E come ti dicevo che vado io, entravano un giorno e se ne andavano, perché vedevano che era pesante il lavoro, se ne andava. Chi sono a manga di frosci? Addirittura. trova nemmeno questo paese, questo, vedi, questo si chiama negozio via Sardegna, l'altro negozio di via delle Viglie, ma mi stai ascoltando? Sì, allora adesso guida tu e mi porti via Sardegna. E dov'è via Sardegna? Dammi con il pugno a casa. Sì, ce l'ho avuto anche io con questa gente qua, Dio santo. Ma volete fare il cambio? No, non ho problemi, io devo fare il travaglio. Io già mi rispondo sempre al segretario telefonica tua. Ma cosa mi hai mandato? Il numero del telefono ti ha mandato nella segretaria telefonica tua. Risponde solo alla tua segretaria telefonica, non c'è nulla da fare. Ho provato a chiamarti 4 volte e in pratica ti ha mandato il numero del telefono, detto il numero del telefono di Marino nella segreteria. Guarda, cioè, è poco, ci vuole poco, ci vuole, è che non ho il numero tuo, cioè, se non te l'abbiamo mandato io via WhatsApp. Sì, io vado alla Giugana, se le hai mandato il mio a Marino, se l'hai preso già mi chiama, no? Il numero Marino già glielo ho mandato, solo che ha provato a chiamarti e anche a lui la stessa identica cosa li fa, capito? Gli risponde la segreteria telefonica e buco. È possibile, è possibile, ma gli hai dato giusto il numero? Certo che gli hai dato giusto, ascolta, mi hai dato tutto. Scusami. 3 3 8 2, ah, fa cuffia questa cosa, 2 0, aspetta. Com'era? 3 8 2 0 5 6 7 8 7 9. Ecco, è sbagliato. E allora come cazzo lo è? Ah, tu mi hai mandato quello, se hai sbagliato mi hai mandato tu sbagliato. Ma come fai a dire che te l'ho mandato sbagliato se ti ho, se te l'ho fatto squillare? Te l'ho fatto squillare, mica ti ho mandato il numero di telefono, te l'ho fatto squillare il cellulare. Sei tu che hai sbagliato a mandarle un'altra cosa. Sto dicendo, io il cellulare mio risulta quello là. Fammi un altro squillo, dai. Al 371, vediamo un pochettino. Dai Pistina, al casinarese se svegli. Ricordo, la privata. Organizzare, ragazzi, sono cucini di capo, questo numero di telefono. Allora, ti sto facendo squillare il 210 finale. Ehi, l'ho visto. Oh, basta. Aspetta. Aspetta, tu, aspetta. Vabbè, sì. Rigido. Sì, biondo. Vabbè, rientrato? Rientrato, sì. Che sei tutta a tronte? Cos'è tu? Sì, stai nudo. Ma cosa ne so, non mi sono l'acqua come troppo. Sì. E beh, dove hai lavorato a Capodanno? Ero a Tronco Reale, a tu. Ma non sei andato a concorso, mi hai detto che devi entrare con noi. Sì, ma poi ero con l'azienda dove sono, pensavo che eravamo firmi. Invece no, mi ha chiamato e sono dovuto andare da loro. Ah, e invece c'è il lavoro. Adesso lo fa ancora quel rumore? No, non lo fa più, no. Adesso un po' di entrata qualche per il polvo. Andrà bene. Yeah. Sono rientrato. Ciao Manuel. Ciao, già, ben sentito. Ben sentito a Catalino. E a quelli che all'altro se c'è vuota che non ho capito chi era, c'era Pomponi all'altro, non so chi era. Scappa, a che appare che sto usando, ma io ci stavo arrivando forte, no? Come che appare? Sempre quello. Ah, sempre quello lì. E adesso arrivi bene. Sempre lì in tecchi 34 canali. Okay. È la modulazione. Questo qua che non lo sento. Mi ha chiamato la Vodafone. Resterò 45 giorni senza linea. Chi è questo che non lo sento già? Emanuele. E da dove sta chiamando, da dove sta modulando, che cazzo, no, non mi muovo manco un svizzero. Emanuele, ma nuovo, non lo so, no, non mi muovo manco un svizzero. Oh, yeah. non può me ne alzo, che sa ma di mazza. Vabbè, praticamente a Sassari però è in condizioni precarie, dai, c'è un antenino troccato. Vabbè, dai, oh ragazzi, io vi saluto, dai, che vado a cenare, che devo andare a lavoro. Sono le 7:10, piano piano. Ciao ragazzi, così mi riposo un po'. Ciao, dai, ci sentiamo domani, ciao a tutti. Ciao, ciao, Luigi, buon lavoro, dai. Ci sentiamo, non ti invito, lo spero che ci sarà. Ciao Genio, ce lo sentiamo. Di attrezzarsi con l'antenna che non riesco a sentirlo. Ciao, ciao. Quando parliamo ci sopramoduliamo. Dai, ciao. Ciao, ciao Eugenio, ciao. Che lavoro? Ciao, ciao. No, già. Cosa? Che lavoro sta facendo? Eugenio? Lavora nelle navi, praticamente lui è quello che guida la motrice e tira i rimorchi. Ah, ho capito. Ma che quello è un lavoro. Beh, sono a conto loro, sono. Si dividono anche gli utili, già va bene come lavoro, fa molto bene. Freddo gli avvisare. Cappa, cappa. Anto. Sì. Penso che sono pregiudizio. Mi ha chiamato la Vodafone dicendomi che mi dovevano avvisare che per 45 giorni non avevo la linea di casa. Ha detto sì, è questi 45 giorni che me li paga a me. No, no, le arriverà la bolletta a costo zero. Se lì è d'accordo, le arriverà la bolletta. Il motivo? Perché devono ripristinare la linea. Dice che ci sono troppi sovraccarichi sulla linea e quindi devono migliorare la situazione. Vabbè, l'importante è che gli devo dire indietro di sotto. Sì, beh, se non usufruisco, l'ho detto, dovete darmi su l'indietro. E allora stai dando indietro adesso.